24, i gialli della storia. La bomba atomica esiste e noi dobbiamo guardare al futuro. Ci facevano molte fotografie, ma a quel tempo io non sapevo nemmeno cosa fosse una macchina fotografica. Non preoccupatevi di niente, ci disse. Fate quello che vi viene detto, non ci sarà nessun pericolo. Sta per avere inizio l'esperimento per la più grande esplosione della storia. Voglio tornare nel mio paradiso dove Dio aveva stabilito che vivessimo. Primo luglio 1946, dopo solo un anno dall'esplosione della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, gli Stati Uniti realizzano un esperimento nucleare in un piccolo atollo delle isole Marshall. Nome in codice Crossroads. 250 navi, 150 aerei, 40.000 osservatori militari, 70 navi cavia, per lo più residuati bellici, vengono concentrate nella laguna. La prima esplosione studierà proprio gli effetti della bomba sulle porte aeree. L'esplosione trasforma l'isola di Bikini in un inferno nucleare dove gli abitanti non torneranno mai più. Oggi a Mix24 raccontiamo questa storia attraverso i cinegiornali e le radio che hanno fatto la cronaca del test nucleare, drammatica e sconvolgente. E poi la testimonianza del soldato John Smitherman, che ha vissuto quegli eventi a bordo di una delle navi ancorate nelle acque del Pacifico. Ma per capire di più torniamo al 6 agosto del 45. Così il presidente americano Harry Truman commenta il lancio della bomba atomica su Hiroshima. Signore e signori, a voi il presidente degli Stati Uniti. Poche ore fa un aereo americano ha sganciato una bomba su Hiroshima. Questo tipo di bomba ha un potenziale superiore a quello di 20.000 tonnellate di tritolo. È una bomba atomica. Al suo interno sono imbrigliate le maggiori forze dell'universo. Siamo stati noi a scoprire la bomba atomica e l'abbiamo usata. Su di noi è ricaduta una responsabilità terribile. Ringraziamo il Signore che sia ricaduta su di noi e non sul nostro nemico. E preghiamo affinché Egli continui a guidarci. Noi la adopereremo nei Suoi modi e per i Suoi fini. Nelle parole del Presidente si percepisce la preoccupazione per l'uso di un mezzo di distruzione così potente. E allora questa enorme potenza deve essere studiata e verificata. Il governo degli Stati Uniti progetta la possibilità di un'esplosione controllata. Ascoltiamo l'ammiraglio William Blady, responsabile dell'operazione Crossroad e Kilombauno, il sovrano dell'isola di Bikini. La Commissione Speciale per l'Energia Nucleare sta esaminando i progetti definitivi degli esperimenti atomici in mare. Washington ha chiamato questo progetto Operazione Crossroad. L'ammiraglio William Blandy riferisce alla Commissione. Gli esperimenti avranno luogo sull'atollo di Bikini, nel Pacifico. Quest'isola si trova nell'arcipelago delle isole Marshall, tra 160 e 170 gradi di longitudine est. La laguna è lunga 44 chilometri da est ad ovest e poco più della metà da nord a sud. Un americano arrivò a Bikini. Disse di essere l'uomo più potente del mondo. Disse che voleva sganciare una bomba su Bikini. Disse che l'America voleva usare Bikini e che noi avremmo dovuto lasciare la nostra isola. Allora, per favore, James, traduci. Il governo degli Stati Uniti vuole trasformare una grande potenza distruttiva in qualcosa che rechi beneficio all'umanità. E questi esperimenti a Bikini sono il primo passo in quella direzione. In that direction. Per realizzare il test nucleare è necessario evacuare la popolazione e trasportarla su un'altra isola. Gli abitanti di Bikini sono soltanto poche decine, ma lo sgomento è enorme. I militari americani li rassicurano e promettono che in tempi ragionevoli torneranno nella loro isola. Ancora Quilombauno. È difficile per me esprimere la tristezza che provavo mentre ce ne stavamo andando. Noi ci voltammo e li guardammo mentre bruciavano tutte le nostre case. Bruciarono tutto, persino le barche che ci eravamo lasciati dietro. Appena partiti, una grande tristezza scese su di noi. Eravamo così tristi che nessuno toccò cibo mentre da Bikini ci trasportavano sull'isola di Rongerik. L'esperimento ha una risonanza internazionale, viene seguito dalla stampa, dai cinegiornali e dalle radio di tutto il mondo. Anche a Bikini viene approntata una stazione radio che racconterà tutte le fasi della preparazione al test. C'è un diffuso ottimismo sui risultati dell'esperimento, mentre perplessità e critiche vengono soprattutto dalla comunità scientifica. Vi proponiamo il primo di una serie di programmi che presenteranno al pubblico in anteprima gli esperimenti sulla bomba atomica nelle isole Marshall. Uno degli elementi più importanti e più drammatici legati allo sganciamento della bomba è la documentazione filmata. Quante macchine fotografiche e da presa verranno usate nell'operazione? Sul luogo ci saranno 104 macchine fotografiche e 208 cineprese. Secondo le nostre stime, abbiamo calcolato che solo nei primi 30 secondi verrà usata la stessa quantità di pellicola che ad Hollywood serve per girare 11 film. Operazione Crossroad. Bikini, a voi la linea. Vi stiamo parlando dall'isola di Bikini. È un'occasione straordinaria, visto che probabilmente è la prima volta e senza dubbio sarà l'ultima che una stazione radio trasmette da Bikini. Radio, giornali, riviste hanno parlato molto di quest'isola e negli ultimi mesi avete visto molte fotografie. Ecco ora un programma radiofonico da questo luogo su cui avete letto tante cose. Quando arrivammo, scoprimmo che faceva davvero caldo, 37 gradi con il 100% di umidità. Quindi, meno ci vestivamo, meglio stavamo, o almeno così pensavamo allora. Perciò cominciamo a farci una nuotata ogni tanto, senza problemi. Non facevamo altro che nuotare e mangiare gelati. È straordinario vedere delle persone di sesso femminile su questa spiaggia, dato che qui ci sono 42.000 uomini e solo 22 donne. Una bella competizione tra tante ragazze e un cane. Gli uomini si mettevano in mostra e facevano gli sciocchi come dei ragazzini. Tutti sembravano divertirsi. Eravamo pieni di ottimismo. Mi dica, Fitzgerald, come ci si sente a star qui? Le piace l'incarico? Sì, signore, non è affatto male. È sposato? No, signore. Pensa che un giorno racconterà tutto questo a qualche nipotino? Beh, speriamo di sì. Quanti anni ha? 18, signore. Da quanto tempo sei sotto le armi? Circa 4 mesi, signore. Beh, ragazzo, ora ti aspetta una missione coi fiocchi. Molte grazie. Per mesi, da Washington al Pacifico centrale, si è lavorato per uno degli esperimenti più grandiosi che il mondo abbia mai conosciuto. A luglio, un'operazione congiunta cercherà di stabilire se l'attuale strategia navale sia superata. L'interesse del pubblico per questa operazione sta crescendo a vista d'occhio. Per rispondere ad alcune critiche, sentiamo l'ammiraglio Blandy. Sappiamo che qualsiasi nazione giunta ad un ragionevole livello di industrializzazione è in grado di produrre la bomba atomica in pochi anni. Io sono certo che voi non volete che le vostre case siano protette da una macchina militare antiquata e inadeguata ad affrontare attacchi nemici. Anche la politica internazionale si mobilita sull'opportunità dei test nucleari. Dunque, non è solo l'esperimento di Bikini al centro della discussione, ma più in generale l'opportunità di possedere e studiare gli effetti di una bomba atomica. Su questo argomento il delegato statunitense e quello sovietico si scontrano in una seduta del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Per ulteriori aggiornamenti sugli esperimenti atomici di Bikini, restate sintonizzati sulla stazione Mutual. Passiamo ora la linea a New York. La seduta del Consiglio di Sicurezza è gremita come non mai. La gente vuole ascoltare questa dichiarazione storica in occasione della presentazione da parte del governo degli Stati Uniti del piano per il controllo mondiale dell'energia nucleare. Ora la parola al delegato americano Bernard Baruch. Siamo qui oggi per compiere una scelta decisiva tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Dietro il nero presagio della nuova era atomica c'è una speranza che può portarci alla salvezza. Dobbiamo aggrapparci ad essa con fede. Se falliremo, avremo condannato ogni uomo ad essere schiavo della paura. E questo è il momento di agire per il bene comune, ora o mai più. Noi siamo consapevoli della pesante responsabilità che grava su di noi perché possediamo i mezzi per produrre la bomba e siamo pronti a dare il nostro pieno contributo in direzione di un controllo effettivo dell'energia nucleare. Il piano Baruch non rientra nell'interesse delle Nazioni Unite. L'Unione Sovietica ha proposto un altro piano riguardo alla bomba atomica, con un'impostazione completamente differente. Noi, popolo dell'Unione Sovietica, non abbiamo progetti futuri per la costruzione di una bomba atomica. Dal discorso del delegato sovietico traspaiono sfiducia e fraintendimento circa le reali motivazioni degli Stati Uniti e degli altri Stati membri delle Nazioni Unite. Le nostre scelte in tempo di guerra e di pace le rimettiamo al giudizio della storia. L'operazione Crossroad va avanti. Una volta allontanati dall'isola tutti i militari, è il momento del primo lancio. Sarà la prima esplosione nucleare raccontata in diretta dalla radio e dai cinegiornali di tutto il mondo. Signore e signori, oggi è il giorno dell'esplosione. Il giorno in cui la quarta bomba atomica della storia colpirà una flotta fantasma nella laguna di Bikini. La superfortezza che trasporta la bomba decollerà dalla base Kwajalein per un volo di 4 ore fino all'ora X. Kwajalein, a voi la linea. Qui è Walter Chaplin che vi parla da Kwajalein, dal tetto di un hangar presso la pista da cui decollerà l'aereo con la bomba atomica. Sta per arrivare il momento in cui la bomba esploderà con furia cosmica su una flotta di navi americane, giapponesi e tedesche ancorate a Bikini. Sta per avere inizio l'esperimento per la più grande esplosione della storia. A bordo delle 22 navi bersaglio ancorate nella laguna si trovano gli animali che presto saranno sacrificati per il bene dell'umanità. Quello che sta per accadere, senza alcun dubbio, determinerà il corso della strategia militare per le prossime generazioni. 30 secondi all'ora zero. Indossare gli occhiali di protezione, girarsi di spalle. Non togliere gli occhiali e non rivolgere il viso verso l'esplosione prima che siano trascorsi 10 secondi dal bagliore. Tutti ci stiamo mettendo gli occhiali di protezione in attesa del segnale. Crossroads, scene 1, take 1, A-Day burst, USS Panamint. Ormai è questione di secondi. Secondi sullo sfondo dell'eternità. Le bombe sono state sganciate, stanno cadendo. Have In quel momento cominciarono il conto alla rovescia. Non eravamo molto tranquilli perché ci avevano detto che l'esplosione sarebbe stata forte. Ci dissero di assicurarci che i nostri occhi fossero coperti quando il conto alla rovescia fosse arrivato allo zero. Mondo, ascolta. Questo è Crossroad. Dopo l'esplosione tutto sembra essere sotto controllo. Gli equipaggi tornano alla loro vita quotidiana in attesa del secondo test. Questa volta la bomba atomica sarà fatta esplodere in mare. Molti degli ufficiali qui a bordo della nave ammiraglia sono ottimisti perché la prima esplosione, la cosiddetta operazione A, è stata portata a termine con successo. Ora si aspetta l'operazione B. La seconda esplosione, l'operazione B, avrà luogo tra 3 settimane, come aveva preannunciato l'ammiraglio William Blandy. Durante questo periodo, per il troppo caldo, dormivamo sul ponte o dove ci capitava. Di prima mattina l'aria si rinfrescava un po' e noi schiacciavamo un pisolino se non eravamo in servizio. Ecco come passammo il tempo a bordo durante quei 24 giorni dal primo al secondo esperimento. In tutto quel periodo non ci fu detta una sola parola circa la radioattività. Intendo dire a noi, membri dell'equipaggio. Può darsi che tra loro ufficiali si parlasse di radioattività, ma io non ero un ufficiale, ero un soldato semplice. Nessuno ci parlò mai di esposizione alle radiazioni o roba del genere. In realtà non sapevamo nemmeno bene cosa volesse dire. La Mutual e le altre stazioni si collegheranno con Bikini, dove l'unità operativa è di nuovo in azione per la seconda volta in un mese. Questa volta per realizzare la prima esplosione atomica subacquea nella storia dell'umanità. Stavamo seduti fuori e a quanto pare fummo investiti da quello che chiamano il fallout. Una grande quantità di detriti della pioggia radioattiva si riversò sulla nostra nave. Io ero lì e fui travolto dalla foschia, dai granelli di sabbia e dai piccoli frammenti di roccia che cadevano tutto intorno. Davvero non ci preoccupavamo di niente. Eravamo stati a bordo delle navi bersaglio e pensavamo che fosse una delle cose più grandiose che potesse succedere. Vedemmo degli uomini salire a bordo. Avevano con loro quei contatori Geiger e camminavano per tutta la nave. Indossavano scarpe normali, ma a volte in stoffa. Riprendemmo le nostre nuotate. C'erano un sacco di pesci morti tutti intorno, ma noi nuotavamo lo stesso. Era la stessa acqua che dalla baia o dalla laguna veniva fatta passare attraverso i condensatori della nave per trasformarla in acqua potabile. Ed era anche la stessa acqua che usavamo per lavare i panni. Ecco che rientra a Washington l'ammiraglio William Blandy, l'uomo che ha diretto i 2 esperimenti atomici sull'atollo Bikini. È qui per raccontarci cosa è successo. Gli esperimenti di Bikini, in modo particolare il secondo esperimento che ha comportato un'esplosione subacquea, hanno dimostrato che la bomba atomica, se venisse adoperata in mare in tempo di guerra, rappresenterebbe non soltanto l'arma più potente, ma anche la più insidiosa mai usata nella storia. Mi auguro sinceramente che possa essere elaborato un piano, pratico e allo stesso tempo accettabile per tutte le nazioni, per metterla fuori legge. L'esperimento nucleare si è concluso e la flotta americana torna alla base. Ma quali saranno le conseguenze sui corpi dei militari che sono state esposte alla radiazione senza alcuna protezione? Ascoltiamo la testimonianza di John Smitherman, ex marine in servizio a Bikini. Durante il viaggio di ritorno a Pearl Harbor, io cercai soprattutto di riposarmi. Quando arrivai a Pearl Harbor, mi trasferirono all'ospedale militare. Fecero molti esperimenti su di me. La mia nave partì per un altro viaggio e io naturalmente rimasi in ospedale. I piedi e le gambe si stavano gonfiando, ma dapprima solo un po'. A volte non riuscivo a infilarmi le scarpe. E io facevo tutto quello che mi dicevano. Mi dissero che se i piedi avessero cominciato a gonfiarsi, avrei dovuto mettermi a letto e tenere i piedi e le gambe sollevati e il gonfiore sarebbe diminuito. Così accadde. La gamba destra si sgonfiò, ma la sinistra continuava ad ingrossarsi. Era diventata enorme. Ormai aveva le dimensioni dei fianchi di un uomo. E cominciarono ad aprirsi ferite, finché dovettero amputarla a causa dei dolori insopportabili che mi procurava. Questo avvenne nel 77, nel marzo del 77. Un anno più tardi, il gonfiore cominciò a passare alla gamba destra e di nuovo non accennava a smettere. Si gonfiava tanto che letteralmente scoppiò e si aprì una ferita dall'incavo del ginocchio sino alla caviglia. Allora mi portarono all'ospedale. Era nell'agosto del 1978. E mi venne amputata la gamba destra dal ginocchio in giù. Subito dopo l'amputazione della gamba, mentre ero ancora in ospedale, cominciò a gonfiarsi la mano sinistra. E neanche a questo seppero porre rimedio. Nella mia mente non c'è ombra di dubbio. Tutte queste cose mi sono successe in seguito all'operazione Crossroad. È stata una morte lenta. Mi ha accompagnato da allora fino a questo momento. E non ci sono soltanto io. Ci sono migliaia di altri uomini lì fuori che forse stanno anche peggio di me. E ci sono migliaia di uomini che sono già morti senza avere la minima idea di cosa abbia provocato la loro fine. Dopo pochi mesi da questa intervista, il soldato John Smitherman è morto per una forma di cancro devastante e incurabile. Gli arti superiori e inferiori della parte destra del corpo di John erano ormai deformi. Gli abitanti di Bikini non hanno mai avuto il permesso di tornare sulla loro isola. Sono coperti dal governo americano per le spese mediche e ricevono un sussidio di $550 al mese. Nel 2010 l'atollo di Bikini è stato riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.